and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K e un saluto da Drago. Ecco. Esattamente, 6 anni fa veniva fondato YouTube, che è una delle risorse che usiamo noi per fare il nostro programma. Quindi sì, vorrei iniziare con un bel applauso a Chad Hurley, Steve Chen e Javed Karim. Bravi. Bravi, bravi, però cosa c'entra con l'asilo? Cosa c'entra? Apparentemente niente, però in realtà persone come i 3 fondatori di YouTube sono dei begli esempi contro l'infantilizzazione del mondo, perché hanno fondato YouTube quando avevano 29, 27 e 26 anni, età alla quale i nostri bamboccioni sono nel pieno della routine, fare finta di studiare, aperitivo, schiantarsi in macchina. Ma sei quindi il solito qualunquista moralista. E poi Drago, guarda che non ci conviene parlare di bamboccioni, in modo spregiativo soprattutto, perché secondo me gran parte del nostro pubblico che ci ascolta è composto da bamboccioni. Sì, che invece di studiare ascoltano la nostra trasmissione. Comunque. Studenti fuori corso, inventate una cosa tipo YouTube e non vi chiameremo più bamboccioni. Ma scusa, Drago, tu quando eri studente fuori corso, cosa hai inventato? Un sacco di scuse per non studiare, ecco, ad esempio. Appunto, bravo. Vabbè, però erano tempi diversi. Adesso o fai una startup come si deve oppure sei un fallito. La startup. Startup. Ma cosa di? Ma qui in Italia i giovani sono sfortunati, Drago, vivono in un mondo infernale. Per far carriera bisogna essere pronti a tutto, soprattutto bisogna essere pronte a tutto. Ma non è vero, dai, basta dire no agli inciuci e insistere con convinzione nei Ma Drago, mezzi, ma ci sono ragazze che si sono laureate brillantemente, madrelingua, cioè, e se vogliono lavorare, ste qui devono farle carine coi vecchi, ti rendi conto? Coi vecchi, guarda la bambina Sara Tommasi. E beh? E lei è laureata in economia e commercio. Dici? Certo. E beh? E beh, lei è preoccupata, dice che anche nella vita di tutti i giorni devi stare attento, perché, non so, prendi qualcosa da bere al bar e ti mettono dentro delle sostanze che ti fanno fare le pazzie sessuali. Drago, le pazzie sessuali, capito, mica... Le sostanze, ma cosa, quali? Ma non lo so, magari una banconota da 500 euro nel bicchiere, come cannuccia. Le campagne pubblicitarie porta a porta ormai sono superate. Quelle telefoniche, anche quelle. Quelle telefoniche stanno per essere regolamentate e quindi alle aziende non resta che tentare le campagne culla a culla. Ma cos'è? Perché in pratica adesso negli Stati Uniti la Disney manda i propri addetti a presidiare i reparti di maternità delle cliniche. La Disney? Sì, e regala comode tutine Disney alle neomamme in cambio del loro indirizzo email. Qualche giorno fa, a El Paso, Texas. Buongiorno signore, congratulazioni. Ecco una tutina Disney per il suo bambino. Grazie, signor. Prego, in cambio vorrei soltanto il suo indirizzo di email. Email? Che è email? Email, la posta elettronica. Posta elettronica? Sì. Io non tengo posta elettronica. Io sono analfabeta. E allora mi devi dare la tutina. E ora, bambini, il sonnellino. Drago, ma hai sentito che Marchionne vede i suoi figli che hanno 18 e 13 anni una volta all'anno? Se ne frega. Ma come no? Ma Drago, ma pensa che sacrifici che fa? Come che se ne frega? Sacrifici, vabbè, va. Senti, gli operai di Mirafiori hanno fatto tanto casino per 10 minuti di pausa in meno. E lui lavora così tanto che non ha nemmeno il tempo di vedere i figli. Ma cioè, ma che discorso è, capa? Ma come? Un discorso da padre a padre. Io come padre sono solidale con Marchionne come padre. Vabbè, ma se gliene fregasse qualcosa dei figli, li vedrebbe, perché insomma... Vabbè, è un casino, abitano a Ginevra, lui è sempre tra Detroit e Torino, segregato, gioca a poker. Segregato. Ma Torino e Ginevra sono vicinissime. Bellissime. Beh, poche ore di macchina. Detroit un po' meno, ma volendo potrebbe farcela. Solo che il suo super stipendio deve guadagnarselo e quindi o sposta i figli a Torino o Detroit oppure ciccia. Vabbè, ma vedi, non si parla mai dei sacrifici che fanno gli uomini d'affari. Sì. Anche loro dovrebbero avere una vita privata, invece tante volte la sacrificano per il lavoro. Sì, tipo il nostro premier, no? Anche lui sempre impegnato in incontri ufficiali, funerali di soldati, celebrazioni. Ma dai, ma in quelle occasioni manda il bambino Letta, lo sanno tutti, lui resta a casa, in famiglia. In un certo senso sì, ha una famiglia un po' allargata, ma è pur sempre una famiglia. Comprende 3 nonni, nessuna nonna e una 20ina di nipotine. No, le nipotine sono 30, Sono già diventate 30. Tuo al fuoristrada nero e il mio ha un cammello d'argento. Tuo papà lavora al ministero e il mio fa le pizze di vento. Tuo papà ha un orologio firmato, il mio chiede l'ora agli gnomi. Tuo papà è un ingegnere avvocato e il mio un domatore di fiumi. Tuo papà ha 1000 azioni di borsa e il mio ha una borsa da spesa. Tuo papà ha 2 auto da corsa e il mio corre a piedi in discesa. Insomma, ho capito, tuo padre è più ricco, più bello, vincente, più grande, potente, più forte, più duro, più fiero del mio. Forse è vero, però tu non conosci mio zio. Il nostro idolo bambino, il bambino Vittorio Sgarbi, sta perfezionando la tecnica dialettica del loop. Sì, però spiega cos'è, se no non si capisce. Vabbè, il loop sarebbe una specie di ripetizione, no? Si usa in musica quando, ad esempio, hai una frase musicale che ti piace, la vuoi ripetere per tutto il brano, puoi metterla in loop, ossia incollare tante ripetizioni di quella frase quanto basta. E si usa tanto anche per le percussioni. Sì. E parlando del bambino Sgarbi, forse l'esempio più calzante è quello dei tamburi. Ecco, dopo l'ormai celebre loop del taci, taci, taci, taci, taci. Il bambino Sgarbi si è di nuovo esibito in televisione la settimana scorsa ad Agorà, il programma del mattino condotto dal bambino Vianello. Ma chi? Raimondo? Cappa, cosa dici? Raimondo Vianello è morto. Lei parla per slogan. Lei parla per slogan. Questo coro di bambini entusiasti per il sindaco di Milano Letizia Moratti in visita a una scuola. Tutto sincero, veniva dal cuore, secondo me. Sai che anche la stampa americana comunque è entusiasta del sindaco Moratti, eh? Perché la stampa americana sa chi è Letizia Moratti. Ma certo, il 29 gennaio il Financial Times ha dedicato 5 pagine esaltate proprio alla Moratti a Milano in vista dell'Expo 2015. Il Financial Times esalta Milano. Esalta Milano, esatto. Esalta Milano. Na, na, na, na, na. Quindi la Moratti è così. Due giorni dopo ha incontrato il bambino napolitano al Museo del Novecento e gli ha detto tutta orgogliosa: il Financial Times esalta Milano. Esalta Milano, esatto. Vabbè, l'avrei fatto anch'io, scusa, un bel biglietto da visita. Sì, hai detto bene, un biglietto da visita. Infatti i biglietti da visita si pagano. Cioè? Vai da un tipografo e ti fai fare i tuoi biglietti da visita, è così che funziona, no? Certo, sì, ci sono anche È così che ha fatto anche il sindaco di Milano, ha telefonato, ho mandato un'email al concessionario di pubblicità del Financial Times e si è fatta stampare 5 pagine a pagamento dove si esalta Milano. Cioè un redazionale. Esatto. Ora c'è tutta una fila di smentite sul fatto che sia stato pagato alcunché, ma resta il fatto che lo stesso quotidiano americano abbia fatto uscire una precisazione qualche giorno dopo che diceva che le 5 pagine su Milano erano un dossier promozionale, in pratica pagine a pagamento. Bisognerà anche promuoverlo, scusa, l'Expo, Drago, non ci vedo niente di male. Per carità, è tutto lecito se ci sono le fatture, però al bambino Presidente della Repubblica non l'ha mica detto che si trattava di pubblicità. E allora... Esalta Milano! Ecco, ancora una volta assistiamo a comportamenti da asilo infantile tenuti da illustri cittadini della Repubblica Italiana. Vabbè, sì, le bugie non si dicono, anche se sei il bambino sindaco non si dicono. Soprattutto se sei il bambino sindaco. O la bambina sindaca. O la bambina sindaco. Ma è il bambino sindaca? Il commercialista ha fatto dei casini. Luglio si avvicina, mi mancano i quattrini. Questa è la strofa che ci ha mandato Rosanna, ascoltatrice di Radio 24, la prima strofa che arriva appunto a formare questa lunghissima canzone, questo lungo mantra di Chiedo Asilo, che verrà poi presentato dal vivo prossimamente, saremo più precisi. E voi continuate a mandare le vostre strofe a chiedoasilo@radio24.it. Torniamo domani? asilo.